personaggi letterari del Falco e il Gabbiano di Enrico Ruggeri. Al giorno d'oggi, dopo anni, secoli di battaglie sostenute dalle donne, la condizione della donna è notevolmente migliorata, almeno nel nostro mondo occidentale. Altrove sicuramente no, e questo è sicuramente un traguardo, ma le cose non sempre sono andate così. Nell'antichità la figura femminile ha avuto un ruolo subordinato rispetto a quella maschile in ambito sociale, lavorativo, legale, anche in quello familiare, no? Pensate ad esempio al matrimonio. I matrimoni erano quasi sempre combinati, stabiliti dai padri, sancivano alleanze, patrimoni che si fondevano, pensate ai nobili, ai regnanti, ma anche la gente normale, insomma, tendeva a fare unioni di convenienza, a fare dei matrimoni che venivano decisi da altri. La cosa curiosa è che duravano di più allora i matrimoni decisi magari da un genitore, da un padre padrone, che non quelli di oggi che vengono decisi dalle persone. Ma questo, insomma, aprirebbe una finestra un po' lunga. E tanto è vero che molto spesso capitava che, nonostante magari il matrimonio fosse combinato, scoccasse lo stesso la cosiddetta scintilla. Insomma, anche nel passato ci sono state unioni veramente felici. Bene, oggi noi raccontiamo la storia di un matrimonio d'amore, anche se probabilmente combinato, la vicenda di una donna straordinaria, che pur essendo stata data in sposa, perché lei era una principessa e come tale veniva data a un re, ha amato il suo uomo, ricambiata da lui a tal punto che entrambi si sono attesi per 20 lunghi anni, o meglio, lei lo ha atteso e non lo ha mai tradito, lui insomma, e invece ci ha messo 20 anni per fare quelle poche miglia che lo separavano da casa e qualche scappatella se l'è concessa, ma più che altro per curiosità nei confronti della vita che per cattiveria. Comunque, il simbolo della fedeltà coniugale è lei, la nostra protagonista di oggi, Penelope, regina di Itaca, moglie del re Ulisse, l'astuto e valoroso guerriero greco. Penelope, la figlia di Icario, il re di Sparta, è una principessa greca, nipote del grande eroe Perseo, cugina della bella Elena. L'inizio della sua vita non è dei più allegri, perché quando il padre scopre che è nata una femmina, ordina inizialmente di gettarla in mare, come spesso accadeva in quei tempi, perché erano i figli maschi quelli che erano considerati importanti ai fini della discendenza. Lei viene gettata in acqua affinché muoia, però viene salvata da un branco di anatre che la tiene a galla e la riporta fino alla spiaggia più vicina, e questo fatto viene interpretato come un segno divino, un colpo d'ala, nel senso che sulle ali dell'anatra la nostra Penelope si salva e interpreta, almeno così viene ritenuto, il volere degli dèi, viene ripresa a palazzo, le viene dato il nome di Penelope, che in greco significa proprio anatra, in greco antico. Alcuni leggono in questo nome anche una premonizione, infatti pne, sempre in greco antico, significa tela, e vedremo come la vita della principessa sarà legata indissolubilmente proprio ad una tela. E in fondo tutti noi padri poi ci innamoriamo delle nostre figlie femmine, anche nel caso del re Icario, che all'inizio l'aveva fatta buttare in mare. Penelope cresce ed è bella, è regale, è saggia, e appena nell'età giusta arrivano i pretendenti alla sua mano. Sono molti i capi greci che aspirano alle nozze con la figlia del re. A Sparta c'è un andirivieni di giovani principi, nobili, guerrieri, sovrani di terre lontane che si innamorano di lei perché è bellissima. La sua fama passa di bocca in bocca e i pretendenti aumentano. Il re Icario non sa chi scegliere, perché, come sappiamo, è lui che sceglie il marito per la figlia. Così ha una pensata, organizza dei giochi tipo olimpiadi, delle gare sportive di forza e resistenza fisica, affinché esca un vincitore da dare in sposo alla sua figlia Penelope. I pretendenti ovviamente, cioè, non è che arrivano quelli del popolo, sono tutti nobili, tutti ricchi, insomma si va comunque sul sicuro, chiunque vincerà sarà buona cosa per la figlia. La differenza la farà la prestanza fisica e l'astuzia, attenzione, e lei assiste ai giochi, in realtà sta già facendo il tifo per uno dei pretendenti, quello che le fa battere il cuore, il più forte, il più bello, ma soprattutto il più intelligente. Si chiama Odisseo, re di Itaca, chiamato Ulisse, che significa ferito all'anca per una enorme cicatrice su una coscia che gli aveva lasciato un cinghiale quando era ragazzino. Nessuno sa quello che custodisco nello scrigno del mio cuore. Ulisse, il re di Itaca, è il più impavido e coraggioso dei contendenti. Astuto e tenace, calmo e riflessivo. È l'uomo mandato dagli dèi per me. La mia bellezza è tutta sua. La mia virtù un fiore che solo lui può cogliere. È lui lo sposo che voglio per l'eternità. Penelope avrebbe scelto, ma è la gara che deve decretare chi sarà lo sposo. Le sfide sono tante, i contendenti valorosi. Ulisse li batte tutti in forza e in intelligenza, fino alla gara finale, la corsa come nel Decathlon, dove lui è super favorito. Il re preferirebbe per la sua figlia il sovrano di una terra più grande e più ricca di Itaca, ma le regole le ha stabilite lui. Ulisse sconfigge tutti gli avversari anche nella gara delle gare, la corsa, e lui non può far altro che concedergli la mano della principessa. Sulle ali di carta. Le nozze tra Penelope, principessa di Sparta, e Ulisse, re di Itaca, si svolgono nel fasto più grandioso. È evidente a tutti che gli sposi sono felici, sono innamorati, ed è una fortuna, insomma, in un'epoca di matrimoni combinati dai genitori o decisi dal destino, e in questo caso la vittoria in una gara sportiva. Icario vorrebbe tenersi la figlia vicina e diciamo che il fatto che avesse tentato di sopprimerla appena nata, lui comincia a rimuoverlo, forse è pentito, e fa di tutto per scongiurare la sua partenza. Vuole che Ulisse rimanga a Sparta, naturalmente questo non è possibile, lui deve tornare al suo regno. Icario è talmente disperato che alla fine Ulisse chiede alla sua sposa di scegliere liberamente: restare a Sparta col padre o seguirlo a Itaca. Per tutta risposta, Penelope, gran donna, senza proferire parola, si copre il capo con un velo che è il segnale di sottomissione al marito. A questo punto il padre non può far altro che lasciarla partire. Narra la leggenda che in quel preciso luogo faccia erigere in suo onore un santuario al pudore coniugale. L'arrivo di Penelope a Itaca è un tripudio di festeggiamenti. Ulisse, il re, ha riportato a casa una regina bellissima, dolce, affascinante. È la personificazione dei desideri di qualsiasi uomo, una donna tranquilla, dedita alle attività femminili, il telaio, il ricamo, una moglie devota e fedele. Ma Penelope è molto più di questo, perché dimostra da subito di essere colta, intelligente, saggia, sensibile. Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi, nella sua trilogia dedicata a Ulisse dal titolo Il mio nome è nessuno, racconta un episodio chiave che ha per protagonista Penelope, che sarà determinante negli eventi futuri. Ulisse sta costruendo la reggia che deve ospitare la sua giovane sposa, e la loro discendenza decide di far abbattere un gigantesco ulivo con il quale costruire il talamo nuziale, ma Penelope si frappone tra l'albero e i taglialegna. Fermali, ti prego, mio sposo. Ho sognato che un uccello d'acqua si posava nel nido su un ulivo nella mia casa. È così bello questo ulivo. Ti prego, non distruggerlo. Fallo per me. Insomma, Penelope è anche sensibile nei confronti della vita, della natura, addirittura di un albero, e lo sposo rimane colpito dalla sua forza e dolcezza. La seconda manda via taglialegna e costruisce personalmente il letto matrimoniale nel tronco dell'ulivo e tutta la reggia attorno all'albero. Fa questo da solo perché rimanga un segreto tra lui e la moglie. E con questo gesto Penelope dimostra di avere non solo nobiltà d'animo, ma anche un forte ascendente sul marito, perché in realtà le grandi donne sono quelle che fanno credere all'uomo che sta comandando lui, ma poi che invece sotto sotto si rivelano indispensabili. Ma questo insomma è un altro discorso. Penelope intanto vive amata da tutti, da Anticlea, che è la madre di Ulisse, ma anche il suocero Laerte, e infatti Ulisse era il Laerziade Ulisse, anche il suocero si affeziona a lei, e Laerte è stato un grande eroe, uno degli Argonauti, ha partecipato con Giasone alla ricerca del vello d'oro nella Colchide, è stato un re saggio, apprezza le doti intellettuali di Penelope, apprezza soprattutto il suo carattere forte e il suo non vergognarsi per la dedizione che ha nei confronti dell'uomo che ama. E poi Penelope rimane incinta, dà alla luce un maschio per Ulisse, per il trono di Itaca. Il bambino viene chiamato Telemaco, che significa colui che combatte lontano, è un riferimento al padre. E sì, perché Ulisse deve partire appena è nato Telemaco, perché arriva Menelao, il marito di Elena, il nuovo re di Sparta. Menelao, lo sapete, chiede aiuto a Ulisse perché Elena, che è considerata la donna più bella del mondo, è stata rapita dai troiani, per la precisione da Paride, gli era stata promessa dalla dea Afrodite in cambio del famoso pomo della bellezza, il pomo della discordia, no? Menelao deve andare a riprendersela. Ulisse non ha molta voglia di partire per quella che si preannuncia come una guerra lunga e difficile. Ha una moglie giovane e bella, un bambino appena nato, un regno da governare, però non può esimersi. C'è un tacito accordo tra i regnanti che impone di venirsi in aiuto in caso di bisogno. Insomma, Ulisse deve partire anche se non ne ha voglia. L'addio è tragico, è straziante. La madre Anticlea distrutta dal dolore, il padre Laerte lo sprona a vincere la guerra e a tornare presto a casa. La vecchia nutrice Euriclea si inchina piangendo ai suoi piedi. Tutti sperano che torni, ma come sappiamo la guerra di Troia sarà tutto fuorché una guerra a lampo, e il ritorno di Ulisse sarà tutto tranne che un rapido ritorno a casa. Penelope ha un comportamento molto diverso, getta le bianche braccia al collo del marito, lo bacia a lungo con passione ardente come un amante senza pudore, e poi gli sussurra qualcosa all'orecchio. Ricorda le mie labbra, mio re. Ricorda come ti ho accolto tra le mie braccia stanotte. Ricorda con quanta passione ti ho dato il mio corpo. Nessuna donna al mondo può amarti come me. Pensami ogni istante e ogni notte, quando la luna sorge dal mare. Io custodirò tuo figlio, il tuo letto, il tuo cane e il tuo arco. Penelope non ha paura che il marito possa morire in combattimento, perché lui è il guerriero più forte, più astuto, non c'è eroe più bravo di lui nell'arte della guerra, però sa anche che Ulisse è affascinante e virile, sa che le tentazioni non gli mancheranno, il suo è il saluto di una donna innamorata, o se preferite è il saluto di quelle donne che preferirebbero vedere il marito morto piuttosto che vederlo nelle braccia di un'altra. Ulisse si stacca a fatica dalla sua sposa e non la dimenticherà mai nel suo lungo peregrinare per i mari. Il suo desiderio sarà sempre e soltanto quello di tornare a casa, anche nei momenti, come dire, di maggior distrazione. La guerra verso la quale lui si sta incamminando sarà una delle più sanguinose combattute nell'epoca antica, la guerra di Troia. Lo sapete, da un lato gli Achei, i Greci, comandati da Menelao e dal fratello Agamennone, con Achille, tutta la storia meravigliosa che Omero ci narra, dall'altra parte i troiani, comandati da Priamo, con i figli Ettore e Paride. Il conflitto durerà 10 anni, ci saranno perdite gravissime da entrambi i lati, vengono uccisi gli eroi più potenti e forti, il troiano Ettore nello scontro, nel duello con Achille, ma poi lo stesso Achille, il re dei Mirmidoni. E dopo 10 lunghissimi anni di assedio, la guerra viene vinta dai greci grazie al cavallo di Troia, allo stratagemma di Ulisse, che si inventa, insomma, questo astuto trucco per entrare dentro Troia con questo cavallo, i 40 valorosi guerrieri, tra i quali lui stesso all'interno del cavallo, con Cassandra condannata a predire sempre il vero e a non essere creduta, che dice ai troiani: guardate, non fidatevi, viene zittita, e il finale è tragico per Troia. Viene spugnata Troia, la guerra è finita, Astianatte, il figlio di Ettore, viene gettato dalle mura, e i sovrani greci finalmente pensano di tornare alle loro case, e per Ulisse è il momento di riabbracciare la sposa Penelope e il figlio Telemaco, che non ha ancora visto praticamente. Però passeranno altri 10 anni di incredibili avventure che lo vedranno protagonista di incontri straordinari. Uno dei più pericolosi e spaventosi è quello, per esempio, quello dell'isola dei Ciclopi, quando Ulisse vengono catturati da Polifemo, il gigante con un solo occhio. È un episodio che viene raccontato anche nel meraviglioso sceneggiato L'Odissea, trasmesso nel 68 dalla Rai, uno tra gli sceneggiati di maggior successo e più belli della Rai, per la sua spettacolarità, per un cast straordinario in cui Penelope è la grande Irene Papas. Cosa c'è? Non è l'impronta di un piede umano questa. Solo un gigante. O un dio. Un mostro, Ulisse. Stranieri, che cosa fate qui? Fatevi vedere bene. Siamo uomini che vogliono conoscere altri uomini, e su questa tua isola abbiamo visto i segni della tua potenza. Ora che hai mangiato carne umana, bevi questo. È vino che avevo portato con me, fiducioso nella tua ospitalità. Un uomo da poco mi ha reso cieco dopo avermi domato il cuore col vino. Si chiama Nessuno! Ciclope! Se qualcuno fra i mortali ti domandasse quale nemico ti abbia accecato, rispondigli che l'astuzia di Ulisse ha vinto la tua forza! Ma noi abbiamo lasciato Penelope a Itaca mentre Ulisse combatteva a Troia per 10 anni, ed è sempre a Itaca negli altri 10 anni in cui viene sballottato dai venti di Eolo, scende agli inferi, poi viene catturato dalla maga Circe, tentato dalle sirene, e intanto Penelope, la fedele sposa del re, deve passare anche lei dei momenti difficili, molto duri momenti che mettono alla prova la sua determinazione e la sua devozione al marito lontano. Sulle ali di carta. La nostra straordinaria protagonista di oggi è Penelope, la bellissima regina di Itaca, la sposa dell'astuto re Ulisse, colei che rappresenta il più fulgido esempio di fedeltà coniugale della storia, perché attende il ritorno del marito dalla guerra di Troia, dal suo lungo peregrinare per il mondo, lo attende per 20 lunghissimi anni senza mai dubitare per un istante che lui sia vivo, e senza dubitare che prima o poi tornerà da lei. Gli rimane fedele grazie a astuti stratagemmi, perché Penelope non è la donna stupidotta e remissiva. La cosa da notare è che è una donna bella, intelligente, brillante, e proprio per questo forse aspetta suo marito. Ulisse è in battaglia, 10 anni a assediare Troia, e poi a guerra vinta 10 anni che lo vedono al centro di avventure straordinarie che lo tengono lontano da casa, e lei cresce da sola, il figlio Telemaco continua a essere la regina di Itaca, a governarla al posto del marito, aiutata da Laerte, il vecchio suocero. Quando Telemaco ha 16 anni, la nobiltà di Itaca comincia a reclamare un re. L'isola non può restare in eterno senza un sovrano. Ulisse manca ormai da troppo tempo, non si hanno più notizie. Ci sono molti giovani nobili pronti a sposare Penelope e a salire sul trono, bissando due bei colpi, no? Una donna bellissima, ma soprattutto la regina. E sono quelli che vengono chiamati i proci. È un termine che significa pretendenti. Sono 108 giovani nobili di Itaca e delle isole limitrofe che vogliono la mano di Penelope. Telemaco non li può soffrire. Il padre mio, io perdei. Popolo d'Itaca, che dico, il padre di tutti noi. È un'altra sciagura mi tocca, i proci. L'intero giorno nel mio palazzo banchettano lautamente, vuotano le urne della miglior vendemmia, vivono alle mie spalle, ma ancor più grave, insidiano la regina. Madre mia, la spingono a fare la sua scelta, una scelta che la fece 20 anni fa e non può essere ripetuta. Mio padre non è lontano, ne sono certo. D'accordo che i tempi erano diversi, ma pensate quando a casa vostra arriva magari quel parente che si porta la sorella e magari stanno per 3 o 4 giorni e voi dopo un po' dite, caspita però, quando se ne vanno? Ecco, qui invece stiamo parlando di 108 persone che vivono da anni nella reggia di Ulisse, per cui insomma il fastidio di Telemaco è più che giustificato. Forse oggi è difficile da parte nostra capire questa accettazione quasi passiva di approfittatori che, non essendoci un re e soprattutto non essendoci un uomo adulto, fanno il bello e il cattivo tempo, però va considerata la sacralità dell'ospitalità nella cultura greca antica, che trae origine dal mito di Zeus vagabondo che attraversa le terre con sembianze umane chiedendo appunto ospitalità. L'ospite è sacro, però 108 ospiti per anni, insomma, sono un'altra cosa. I proci approfittano della credenza e vivono per anni alle spalle del re disperso. La richiesta affinché Penelope si decida a scegliere un nuovo marito e quindi a nominare virtualmente un nuovo sovrano si fa sempre più pressante. Continuano a insistere, la mettono alle strette, così Penelope, degna consorte del marito, l'astuto Ulisse, inventa uno straordinario stratagemma per allontanare il matrimonio, perché lei lo sa che Ulisse tornerà, è solo questione di tempo. Il piano che ha escogitato Penelope è questo: sceglierà uno di loro, lo sposerà restituendo a Itaca un re, ma prima deve terminare il sudario che sta tessendo per il suocero Laerte, una tela di tessuto finissimo destinata ad avvolgerlo alla sua morte per accompagnarlo degnamente nel suo ultimo viaggio verso gli inferi. È una richiesta accettabile, non si può rifiutare. Laerte è stato un re importante, uno degli Argonauti, merita un dono prezioso da parte della nuora prima che lei convoli a nozze con un nuovo marito. Però Penelope è furba, ha fatto posizionare il suo telaio nella grande stanza centrale del palazzo reale dove i proci possono vederla mentre tesse, ma la notte, mentre tutti dormono, il palazzo è avvolto dal silenzio e dall'oscurità, lei abbandona il talamo nuziale, si avvicina al telaio e distrugge il lavoro che ha fatto durante il giorno. La tela non procede mai. Questa furbizia della regina allontana la scelta di un nuovo marito. Si dà anche l'inizio, come dire, a una frase idiomatica, no? La tela di Penelope, questo lavoro è una tela di Penelope, l'avrete sentito dire. Però in tutti i palazzi reali e in tutto il mondo ci sono delle spie pronte a raccontare tutto. I proci che hanno pazientato per 4 anni scoprono l'inganno. Uno dei più agguerriti è Antino, il più bello dei proci, ma anche il più arrogante, il più violento. Non sono i pretendenti achei colpevoli della situazione, ma la regina, che da 3 anni, ormai quasi 4, ci illude. Dà speranza e promesse a tutti, ma la sua mente medita altro. Ci diceva: miei giovani pretendenti, pur desiderando fortemente le nozze, aspettate che io abbia terminato il lenzuolo funebre per Laerte, in modo che nessuna achea possa criticarmi per aver lasciato senza sudario un uomo della sua importanza. E così dicendo, calmò il nostro animo virile. Ma di notte sfaceva il gran telo. Un'ancella che ben lo sapeva ci ha rivelato tutto, e noi l'abbiamo colta sul fatto. Ora, controvoglia, dovrà finire il sudario per forza. Penelope è stata tradita, è stata smascherata, capisce di non poter più portare avanti il suo tranello, deve terminare il sudario, ma non si perde d'animo perché lei è una donna coraggiosa e certa di riuscire a trovare un altro sistema per rimandare le nozze. Ma la resa dei conti è vicina, perché Ulisse è riuscito a toccare le sponde tanto amate di Itaca, ma siccome è un uomo scaltro, prudente, si guarda bene dal rivelarsi subito, si traveste da mendicante, si presenta alla porta di Eumeo, il guardiano dei maiali, il suo fedelissimo servo, e proprio da lui viene a sapere quale sia la terribile situazione nella quale sta vivendo la sua famiglia e in particolare la sua fedele sposa. A casa di Eumeo Ulisse incontra per la prima volta Telemaco, che ormai è ventenne. È un abbraccio tenerissimo quello tra il padre e il figlio, che non si conoscono, però il sangue è il sangue e Ulisse medita la sua vendetta. Nel frattempo va detto anche che c'è il cane Argo, che riconosce Ulisse, anzi è il suo ultimo gesto, insomma, perché Argo è un cane più che ventenne, quindi vecchissimo. Intanto Penelope, ignara del ritorno del marito, ha avuto un'altra idea straordinaria, però convoca i proci e dice che finalmente ha terminato la tela, ha deciso di sposarsi. Il fortunato, quello che lei sceglierà, sarà quello che vincerà in una gara di tiro con l'arco. Però l'arco deve essere quello del re, l'arco di Ulisse. C'è un motivo ben preciso per cui Penelope fa questa richiesta. L'arco di Ulisse è stato costruito da lui, ricavato dalle corna di un bue sacro agli dei, e solo lui è riuscito a tenderlo. E Ulisse viene condotto a corte da Telemaco e travestito da mendicante. È il giorno della gara. Naturalmente nessuno dei proci sta riuscendo nell'impresa di tendere l'arco, neanche quando ci provano in più di uno assieme, che non si capisce poi se lo tendono in due, poi come si fa, uno dei due deve sposare la regina. Ma transeat, a questo punto si va avanti Ulisse travestito da mendicante. È una scena drammatica di grande pathos, è stata raccontata in tanti film diversi. Forse uno dei più appassionati è Ulisse di Camerini del 54, dove Ulisse è interpretato da un focoso e potente Kirk Douglas. Posso avere dalla regina il permesso di tendere quest'arco? No. Oseresti gareggiare con noi? Peggio non potrò fare. Avete sentito? Il mendicante vuol misurare la sua forza con la notte. Penelope, ti piacerebbe questo straccione per marito? Non temere, regina. Io non avanzerò pretese. Ho già una moglie. Se lo desideri, straniero, puoi tentare la prova. Ma non puoi! Non devi permetterlo, Penelope! È un mendicante! È un'offesa per tutti noi! Che buffonata! Perché dobbiamo sopportare questo? Andate via, via! Lascialo stare! Avanti, sbrigati, la commedia è durata abbastanza. Ulisse tende l'arco e poi uccide a uno tutti i pretendenti e le ancelle che avevano tradito la regina. La strage dei proci e il riconoscimento dell'eroe da parte della vecchia nutrice Euriclea dovrebbero sancire il ricongiungimento con Penelope, però la regina è titubante, sono passati 20 anni, l'uomo che ha di fronte è molto diverso dall'Ulisse che era partito per la guerra nel pieno della sua età migliore, e Penelope confida le sue perplessità a Telemaco. Figlio mio, di immoto stupore ho l'animo colmo. Se egli è veramente Ulisse che è tornato a casa, potremmo ben riconoscerci meglio tra di noi, perché segni segreti abbiamo, noti solo a noi due. Penelope vuole essere sicura, c'è un'ultima prova a cui decide di sottoporre lo straniero. Dice che il re deve poter riposare bene dopo tanti anni lontano da casa e quindi invita la nutrice a fargli portare lì il suo letto. Ulisse sorride. Donna, chi potrebbe portare altrove quel letto? Nessuno fra gli uomini mortali, anche nel vigore dell'età, riuscirebbe a muoverlo. Vi è un grande segreto in quel letto, da me solamente costruito dentro un olivo dalle radici profonde. D'oro e d'argento e d'avorio lo ornai, e poi vi costruì intorno la reggia. E questo è il nostro segreto. E finalmente Penelope si può rilassare perché ha capito che quell'uomo è veramente il suo sposo. E il momento del riconoscimento da parte della regina rappresenta uno dei momenti chiave, uno dei momenti più emozionanti di questa intricata vicenda, la vicenda che porta di nuovo Ulisse sul trono di Itaca. Nonostante i suoi viaggi non siano terminati, perché il re dovrà percorrere ancora molti mari, viaggiare tra genti di ogni sorta, Penelope però potrà vivere completamente la sua vita di donna, di madre e di moglie. Darà a Ulisse ancora due figli, Arcesilao e Poliporte. I due sovrani regneranno ancora molti anni fino alla vecchiaia. La regina Penelope, madre affettuosa, sposa fedele, donna superiore, di grande intelligenza, astuzia, rimane un mito intramontabile, un modello di comportamento, un ideale di donna al di là di ogni moda e di ogni tempo. Ci sono storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala. Questa è la storia di una grande donna che con la grazia ma anche con l'intelligenza riesce a rimanere fedele al suo uomo senza nessun tipo di caduta, né coniugale, né di gusto, né di stile. Ognuno di noi nella nostra vita può volare molto in alto come il falco, il gabbiano e come la nostra Penelope. Se volete mandare dei commenti anche su questa sezione del Falco e il Gabbiano, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it oppure al nostro sito, oppure scrivete nei miei Facebook, Twitter, nei nostri social, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.